Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, ben ritrovati. Oggi torniamo a parlare dei vostri risparmi e dei vostri investimenti, soprattutto di quelli che avete orientato verso, come dire, il brand Italia. Lo spread, il differenziale di rendimento fra i titoli decennali tedeschi e quelli spagnoli è tornato al di sotto dell'analogo differenziale con i titoli di Stato italiani. Un sorpasso che viene interpretato, del quale si è parlato molto in questi giorni, come il riconoscimento di una maggiore stabilità ed affidabilità al debito pubblico spagnolo. Si tratta indubbiamente di un segnale d'allarme che viene ricondotto alla traballante situazione politica italiana di questi giorni, ma anche a considerazioni di medio e lungo termine sullo sviluppo dell'economia dei due paesi. Allora Salva Danaio vuole fare il punto della situazione spiegandovi un po' quello che è successo in questi giorni, raccogliendo i consigli per i risparmiatori che hanno scelto di investire nei titoli di Stato italiani o vorrebbero farlo a breve. Peraltro l'occasione è ghiotta perché ci sono state anche due corpose aste di titoli di Stato tra ieri e oggi, e come nelle aspettative, proprio alla luce dei riflessi di questa situazione politica italiana, i rendimenti chiesti dagli investitori che comunque hanno puntato sui titoli italiani sono stati in ogni caso più alti, come è successo questa mattina. Vi rifarò tra un attimo il punto della situazione sugli appuntamenti di oggi, ma soprattutto, prima di tutto, vi presento gli ospiti con i quali discuteremo di tutto questo. Grazie e buongiorno a Massimo Gotta, esperto di reddito fisso del gruppo G&D Investimenti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E buongiorno e ben ritrovata anche a Roberta Rossi, consulente finanziario indipendente, titolare del sito moneyexpert.it. Buongiorno. Buongiorno a Deborah. Allora, spread, Spagna, meglio dell'Italia, cosa cambia per noi tutti che investiamo nel mercato obbligazionario governativo? 800 24 00 24 è il numero verde che vi dà come sempre l'opportunità di chiamarci, intervenire in diretta, porre le vostre domande ai nostri esperti sui temi appunto del giorno. In alternativa potete scriverci i vostri quesiti o le vostre riflessioni al 349 238 6666. Potete scriverci a salvadanaio@radio24.it su Facebook, il nostro profilo è su salvadanaio-radio24, su Twitter potete seguirci su @salvadanaio24. Prima di tutto questo, ma in realtà non è che ci distacchiamo evidentemente molto dal tema del giorno, vediamo un po' cosa sta succedendo in borsa. Prima di darvi l'esito delle aste che erano previste questa mattina da parte del Ministero dell'Economia, vi dico come sta andando la borsa, un po' nervosa. Quest'oggi tornano a scendere gli indici europei dopo i rialzi di ieri, che avevano visto in particolar modo protagonista Milano, che aveva chiuso la seduta con un rialzo dell'1,3%. Oggi Milano frena per lo 0,7%, frenano un po' meno le altre piazze. Londra meno 0,35%, Francoforte meno 0,22%, Parigi meno 0,41%. Indubbiamente pesano le riflessioni rilasciate poco fa dalla Banca Centrale Europea, che ha diffuso il bollettino mensile. Si è parlato chiaramente anche delle condizioni dell'economia dell'Eurozona, che riprenderà un pochino di spinta nei prossimi mesi, ma niente di particolarmente incoraggiante, al punto che i tassi dovranno essere mantenuti così bassi ancora a lungo e forse ancora più bassi. E poi un'occhiata anche ai paesi che chiedono delle proroghe per aggiustare i loro bilanci. La Banca Centrale Europea ha detto non è che questo procrastinare potrà continuare a lungo, per cui insomma un segnale d'allarme anche da parte della Banca Centrale Europea, che chiede a tutti i paesi in difficoltà di essere più responsabili. La disoccupazione, poi, la Banca Centrale Europea ha detto anche, resta alta, ma le prospettive ora sono lievemente più favorevoli rispetto agli ultimi bollettini. In tutto questo, dicevamo, Milano negativa. I titoli che stanno trascinando a ribasso Milano sono quelli che, devo dire la verità, hanno corso parecchio negli ultimi mesi, in particolar modo Azimut, società nel settore del risparmio gestito, meno 3,50%, meno 2,50% per Prismi, anche Mediaset frena per l'1,74%, Tozze meno 1,71%, e hanno il segno meno anche tutte le banche italiane. Perché? Perché lo spread è ritornato a 250 punti base questa mattina, e perché le aste dei titoli di Stato appunto che ci sono state poco fa hanno chiuso, si sono chiuse appunto con tassi più alti per tutte le scadenze che sono state piazzate. Adesso ve le racconto, intanto sentiamo un po' che cosa è successo negli ultimi giorni. Era da un anno e mezzo che lo spread italiano non si trovava allo stesso livello e perfino al di sopra di quello spagnolo. Un sorpasso, quello avvenuto questa settimana, che tradotto in termini più semplici, anche se questo spread tutti hanno ormai imparato a conoscerlo, o almeno a sentirlo pronunciare, significa che Madrid viene considerata un po' più affidabile di Roma. Ieri il differenziale tra i BTP italiani e il Bund tedesco ha chiuso a 248 punti base, contro i 243 dei bonus. Il titolo di Stato a 10 anni italiano ha un tasso di interesse al 4,52%. Quello spagnolo si ferma al 4,47%. Tra le cause c'è sicuramente la situazione politica italiana che traballa, sulle fondamenta poco rassicuranti delle larghe intese, a loro volta messe in crisi dal dibattito che ruota intorno alle vicende giudiziarie di Silvio Berlusconi. Ma il campanello d'allarme lanciato dal mercato obbligazionario può anche essere sintomo di tendenze economiche più profonde e non soltanto l'effetto delle notizie di questi giorni. Madrid, oltre a poter contare sul governo stabile di Mariano Rajoy, ha messo a punto delle riforme che vengono considerate, sul lungo periodo, più promettenti delle nostre. Nonostante l'Italia abbia senza dubbio un'economia più sviluppata e indicatori più rassicuranti sotto diverse voci, c'è probabilmente qualcosa che non convince nelle ricette che sono state adottate per curare la crisi. E il risultato è che noi dobbiamo indebitarci a un tasso più salato dei cugini iberici. Dubbi che vanno a pesare anche sui risparmiatori che investono in titoli di Stato, che non possono che chiedersi quali siano le scelte più convenienti da adottare nell'immediato e nei prossimi mesi. Bella domanda, davvero una domanda che ci facciamo un po' tutti, soprattutto se la fanno coloro che negli anni passati sono stati molto affezionati ai titoli di Stato italiani e che invece da un paio d'anni a questa parte hanno dovuto prendere confidenza con una volatilità di questi investimenti alla quale probabilmente non erano pronti. Allora, Roberta Rossi, vorrei cominciare con lei per commentare questa nuova situazione che si è verificata negli ultimi giorni, questo sorpasso. Peraltro bisogna vedere anche da che parte lo si guarda, perché qualcuno dice che è stata l'Italia che ha sorpassato la Spagna sullo spread, appunto ampliandolo naturalmente, poi se lo si guarda invece dall'altra parte è la Spagna che sorpassa l'Italia appunto in termini più vantaggiosi di rendimenti. Ma a parte questo, insomma, a parte la direzione in cui il sorpasso si può guardare, come giudica lei la situazione che si è determinata in questi giorni? E soprattutto mi chiedo se i clienti che si rivolgono a lei hanno espresso delle preoccupazioni e guardano con interesse anche a queste dinamiche macroeconomiche. Allora, innanzitutto i miei clienti hanno un peso molto ridotto del debito italiano nel loro portafoglio, perché noi abbiamo privilegiato in questi anni altri temi di investimento e attualmente siamo su obbligazioni che o corporate o obbligazioni bancarie italiane, i cui rendimenti sono piuttosto complicati da calcolare, che quindi sono hanno dei rendimenti interessanti ma che il risparmiatore italiano non prende normalmente in considerazione, mentre sul fronte, diciamo, fondi abbiamo selezionato in questi anni dei gestori molto interessanti che quindi hanno nei loro portafogli non solo debito pubblico italiano, quindi il nostro sforzo in questi anni è stato proprio quello di diversificare molto il portafoglio dei nostri investitori che, essendo già italiani, hanno larga parte del loro portafoglio sull'Italia. E hanno già i loro problemi con il governo che li governa, per l'appunto, quindi hanno altri problemi. Chiusa parentesi, esatto. Che era una riflessione solo mia, Rossi. Sì. Il dato del sorpasso della Spagna è un dato sicuramente una spia d'allarme di una situazione che sta mutando nella percezione di quelli che sono gli investitori istituzionali esteri, cioè attualmente il debito pubblico italiano è detenuto per il 60% da banche e investitori italiani e per il 40% da investitori esteri. Questi investitori esteri già negli ultimi due anni hanno ridotto di circa il 10% l'esposizione sull'Italia e temo che continueranno a farlo, perché la sospensione temporale che ha dato la BCE a tutti i governi del sud Europa per fare riforme e risanare i loro conti pubblici è stata un'occasione che l'Italia ha un po' perso in questi anni, tanto è vero che la spesa pubblica italiana, anche quella corrente, non è diminuita in questi anni. E questo è un dato preoccupante perché diciamo che se con una metafora si può dire che la Spagna, ma anche prima l'Irlanda, hanno visto una fine spaventosa, l'Italia sembra un po' uno spavento senza fine, perché non si vede come usciremo da questa situazione. In Spagna di fatto i dati sul PIL sono migliori dei nostri e soprattutto c'è una maggioranza di governo stabile che delle riforme da fatte, e anche settori molto problematici come quello immobiliare stanno ripartendo grazie anche al fatto che le banche piuttosto vendono, anche con sconti pesanti dell'80% sui loro patrimoni immobiliari, ma vendono. E una situazione simile c'è stata anche in Irlanda, mentre in Italia anche sul fronte immobiliare c'è un po' un congelamento delle transazioni, ma non c'è una di fatto una caduta dei prezzi. Quindi sia da parte governativo, da parte del governo, che da parte del risparmiatore non si avverte da parte degli grandi investitori istituzionali una voglia in realtà di toccare il fondo e ripartire. Ecco, tutto sommato però le aste stanno tenendo. Allora vorrei commentare con il nostro secondo ospite Massimo Gotta del gruppo G&D Investimenti come valuta i rendimenti spuntati questa mattina dal Tesoro, che ha appunto piazzato, come dicevamo nel giornale radio, intanto BTP a 15 anni per 1,5 miliardi di euro, registrando un rialzo del rendimento medio al 4,88% dal 4,67% dell'asta di giugno. Un po' più forte è stato invece il rialzo del rendimento che è stato maturato appunto sul mercato nel BTP a 3 anni, che è balzato al 2,72% dal 2,33%. In questo caso il Tesoro ha collocato 3 miliardi. Com'è stata la copertura di queste aste? Il to cover, devo dire che delle aste sia di oggi sia dei giorni precedenti. Perché anche questo è un aspetto importante, no? Anche sì, se sono soddisfacenti, perché comunque al di là del rialzo dei tassi, di cui magari parliamo in seconda battuta, il B2 cover evidenzia che tutta quella che l'offerta che il Tesoro ha messo sul mercato è stata ampiamente soddisfatta, e quindi anzi non richiesta, era superiore, leggermente superiore all'offerta. Prova ne sia che per quanto riguarda le aste di oggi, il BTP 2016 ha avuto un B2 cover dell'1,52, mentre il BTP 2028 dell'1,36. Il dato più interessante da questo punto di vista, dal mio modo di vedere, è il rendimento del triennale, che si è riportato sui massimi da ottobre 2012, quindi forse nel rialzo generalizzato di quelli che sono stati i tassi pagati dal Tesoro in queste ultime aste è quello che ha avuto un valore leggermente superiore a quello che potremmo considerare una media. Tutto questo però, a mio modo di vedere, posto che mi trovo perfettamente d'accordo con quanto diceva il vostro servizio prima e con quanto già la mia collega ha illustrato precedentemente, il discorso del rialzo dei tassi sul debito italiano va comunque contestualizzato in quello che è il rialzo generale dei tassi che sta avvenendo da diverse settimane un po' su tutta l'area euro. Noi, come già sottolineato, il rialzo che ha riguardato tra l'altro anche i Bund tedeschi. Anche i Bund tedeschi, infatti l'ultima asta del Bund ha visto un Bund che fino a qualche mese fa era stabilmente intorno all'1,5 come rendimento, ha sfondato la soglia del 2, quindi comunque anche i tedeschi in questo momento devono offrire qualcosa in più per poter rendere appetibile il loro debito. Chiaro che stiamo parlando comunque di uno Stato dove fino a poco tempo fa gli investitori erano disposti ad investire a rendimenti negativi. Quindi quello che mi sta dicendo è che lei sta vedendo un maggior ritorno verso una condizione di normalizzazione più che di situazione di maggior preoccupazione intorno all'Italia, di rinnovata nuova? No, non necessariamente. Secondo me una normalizzazione al momento è ancora prematura, perché noi nel caso specifico andiamo a pagare quella che è giustamente una instabilità politica veramente molto importante. Un altro dato che per esempio riguarda la Spagna, non so se è stato detto prima oppure no, comunque al di là delle riforme che sono state messe in atto dal governo spagnolo, che sono comunque strutturalmente molto più efficaci e più validi nel medio e lungo termine rispetto a quello che si cerca da fare da noi, anche il dato della disoccupazione spagnola è stato sensibilmente incoraggiante rispetto invece ai dati che riguardano la nostra personale disoccupazione sul territorio italiano. Quindi anche questo, ovviamente, unito a un rialzo generale dei tassi, unito ad una maggiore percezione di rischiosità da parte del nostro debitore Stato, fa sì che la forchetta in alcuni su alcuni nodi della curva vada un pochino ad ampliarsi. Quindi mettiamola così, che pur essendo partita da una condizione di maggiore difficoltà, la Spagna si sta rimettendo in carreggiata in maniera più convincente rispetto all'Italia, che invece ogni giorno affronta rogne nuove e che agli investitori non piacciono, come quella politica. Possiamo sintetizzarla in maniera molto brutale così? Esatto, sì, è brutale, però rispecchia la realtà dei fatti, nel senso che comunque sia, se noi guardiamo nello stesso lasso di tempo da quando il nostro nuovo governo di larghe intese si è insediato e facciamo un paragone tra quello che è stato fatto praticamente in Spagna e in Italia, insomma la differenza è notevole e comunque i numeri parlano da soli. Benissimo. Quindi sicuramente sarà brutale come lei ha detto, ma è così. La verità. Purtroppo in questo allora modo. Detto tutto questo, abbiamo già impostato la nostra conversazione con dei punti sicuramente interessanti da continuare ad approfondire. Diciamo che adesso posso già permettermi la prima pausa di oggi e poi prenderemo anche subito in considerazione le domande dei nostri ascoltatori. È pronto, collegato telefonicamente, Fabrizio da Firenze, che saluto. Fabrizio, mi sente? Sì, la sento, buongiorno. Mi aspetta ancora un minutino, ci sentiamo insieme le previsioni meteorologiche? Sì. Benissimo, la ringrazio. E poi c'è anche un altro ascoltatore che scrive al 349-238-6666, ma perché titoli di Stato? Non faccio prima con i conti di deposito, non rischio soldi, sono sempre disponibili, niente tasse. E beh, insomma, ha già detto delle inesattezze, per cui poi ognuno fa le scelte che ritiene più pertinenti al proprio grado di rischio e alle proprie attitudini nei confronti anche del mondo del risparmio, però non è che sia poi così vero quello che dice questo ascoltatore. Sono nelle mani di un pazzo. Hai avuto paura? Io? No, guida bene lei. Vanna più forte, spingo. Vai, cavalina! Vai! Attenzione, sta arrivando la polizia stradale, non correre. L'avrete riconosciuto in molti, naturalmente in questi giorni parlando diffusamente della questione del sorpasso tra la Spagna e l'Italia in termini di spread, molti di voi appunto sarà tornato in mente il film del 1962 di Dino Risi, Il Sorpasso, con protagonista appunto Gassman, Bruno Cortona, 36enne, vigoroso ma nulla facente cialtrone, amante della guida sportiva e delle belle donne, intraprende questo viaggio con questo malcapitato studente di legge, tale Roberto Mariani, senza dubbio molto meno esuberante, sicuramente insomma una situazione che ci riporta alla mente quanto proprio anche a livello economico sta accadendo in questi giorni. Chi guida questo paese sa molto bene appunto quali responsabilità ha anche in termini delle relazioni con gli altri paesi appunto, e questa relazione con la Spagna in questi giorni è stata un po' la nostra più grande preoccupazione. E allora noi, alla luce di quello che è accaduto negli ultimi giorni, stiamo ragionando sulle aste dei titoli di Stato di ieri e di oggi, su come si sono mossi i rendimenti, su come si è mosso questo spread e soprattutto, alla luce di questo, come si possono muovere anche i portafogli di chi ha investito un po' di denaro nei titoli di Stato italiani e se adesso ci sta pensando che cosa può fare per diversificare al meglio il suo portafoglio. Con noi questa mattina due consulenti finanziari, Massimo Gotta e Roberta Rossi. Allora, abbiamo promesso a Fabrizio da Firenze di sentirlo non appena rientrato in onda. Buongiorno Fabrizio, all'800240024, ci dica. Sì, buongiorno. Un'informazione su uno strumento, su un BTP, uno strumento un po' particolare, nel senso che è un trentennale sui quali molto spesso io ci faccio trading, nel quale ho notato in maniera molto curiosa che laddove si verifichi, come si è verificato nel 2005, 2006, 2007, un importante aumento dei tassi, il trentennale non ne ha risentito, anzi tutt'altro, ha performato in termini di aumento del valore nominale in maniera piuttosto sensibile, no? Che è una cosa un pochino contro logica, perché sull'aumento dei tassi. E quindi prima vi volevo chiedere questo genere di anomalia, e poi vi volevo chiedere appunto se l'aumento dello spread determinato da fattori esterni e quant'altro possa a questo punto andare a interferire sul trentennale, sul BTP trentennale, oppure è uno strumento che ha una storia a sé? Grazie a lei Fabrizio. Allora, questa domanda intanto la girerò dopo a Massimo Gotta e lo lascio quindi riflettere un attimo sulla risposta da dare al nostro ascoltatore. Prima però volevo ripartire dal messaggio che invece, e questo lo faccio con Roberta Rossi, che ci ha mandato prima questo ascoltatore, che faceva questo parallelo fra titolo di Stato e conto di deposito, perché lui dice: se faccio il conto di deposito non rischio, rischio, i soldi sono sempre disponibili e non ci pago le tasse. Allora, Roberta Rossi, tanto per cominciare, la mini patrimoniale è stata applicata recentemente anche a questo strumento di risparmio, comunque di accantonamento, e non è vero che sul conto di deposito non si rischia niente, perché chiaramente una banca che sta in Italia, che utilizza per fare raccolta questi strumenti, stando in Italia corre il rischio del paese naturalmente, quindi forse il parallelo con il titolo di Stato ci sta, e come? Sì, diciamo che il baluardo a livello europeo che è stato mantenuto finora in tutte le crisi che si sono viste è stato quello della tutela dei depositi fino ai 100.000 euro, mentre sopra questa cifra abbiamo visto a Cipro che il 47% dei depositi sopra i 100.000 euro sono di fatto andati in fumo, quindi a livello europeo questa tutela ultima del depositante finora effettivamente c'è stata, quindi primo consiglio: non superare questo livello per banca. Secondo consiglio: non guardare solo i rendimenti offerti, perché va valutata anche la solidità dell'istituto a cui di fatto si stanno prestando i soldi. Diciamo che poi le remunerazioni si sono rese meno appetitose negli ultimi tempi, anche di questi. Si sono rese meno appetitose, però ci sono banche che continuano a offrire dei tassi molto molto elevati. Una delle ultime che è attualmente commissariata è stata Banca Marche, lo possiamo anche dire senza problemi, anche perché è scritto su tutti i giornali, sì. Sì, che aveva diciamo anche come testimonial questo cane lupo, e il conto di deposito si chiamava deposito sicuro. Ecco, quindi al di là diciamo delle pubblicità, del marketing, bisogna anche vedere se il conto deposito non è, insomma, prestare poi soldi a un cane. Era anche una facile diciamo battuta questa che avevano scelto come testimonial. Certo. Quindi effettivamente bisogna, il conto deposito è un prestito che si fa alla banca, quindi bisogna valutare la solidità dell'istituto e non farsi sempre sventolare questo interesse, questo tasso di interesse più elevato come metro di scelta. No, poi c'era anche un'altra riflessione che volevo fare. Lui dice, l'ascoltatore, i soldi sono sempre disponibili, a differenza anche il titolo di Stato, hanno per fortuna un mercato estremamente liquido, per cui volendo venderli si può fare. Non la trovo particolarmente rilevante. Secondo me va bene diciamo come parcheggio in attesa di fare altro, però come investimento non ha proprio nessun senso dal punto di vista finanziario. Aggiungo anche che nel remoto rischio di una eventuale patrimoniale, i conti di deposito nel 92 non c'erano, però potrebbero essere andati e sarebbe come dire su fondi monetari banalmente non ha subito questo salasso, cioè, sarebbero il serbatoio più veloce da cui andare a tingere qualcosa in sostanza, però adesso sì, non la evochiamo. Bello pensare che il conto di deposito sia senza rischi, ma di fatto non lo è. Allora, diciamo che può essere un strumento di parcheggio valido se per esempio una cifra importante ci serve magari nel giro di poco tempo, e chiaramente non ha senso investire questa cifra in uno strumento finanziario che avrebbe più difficoltà ad essere smontato e disinvestito. Posso dire questa cosa almeno, Rossi, su questo è d'accordo? Sì, sì, assolutamente. Allora, sempre di non andare su cifre, insomma, se parliamo già di milioni di euro. Non mettere tutto lì, qua la classica regola di non mettere tutte le uova nel paniere è sempre la nostra preferita. Allora, Massimo Gotta, andiamo invece alla relazione che il nostro ascoltatore ha fatto poco fa tra l'aumento dello spread e il movimento delle BTP, appunto, trentennale. Sì, beh, allora lui... L'ascoltatore in realtà ha posto due domande. La prima, che riguardava la sensibilità del prezzo di questo benchmark trentennale, considerando che almeno secondo le sue osservazioni, nonostante l'aumento dei tassi, abbia risentito meno in conto capitale di decurtazioni sul fronte del prezzo. Ora, io non so quale benchmark lui abbia preso a riferimento, ne abbiamo BTP con scadenza 34-33, voglio dire, ci sono diversi benchmark che possono essere assimilati al trentennale, anche con scadenze superiori. In realtà, quello che io vedo dai grafici e quello che vedo dalle quotazioni, questi titoli comunque negli ultimi mesi hanno comunque avuto una una discesa di prezzo che è chiaramente da attribuire all'aumento dei tassi generalizzato nell'area euro, come dicevamo prima, e poi sicuramente anche per il fattore spread. E qui rispondiamo alla seconda domanda. Certo che uno spread che aumenta, quindi un credit risk sul debito sovrano che viene in qualche modo ad aumentare, incide in maniera implicita sulla quotazione del prezzo, perché di fatto, a dispetto di quello che può essere il movimento della curva dei tassi, implica un rendimento maggiore richiesto dal mercato per rendere appetibile questo tipo di investimento. Quindi va da sé che se lo spread dovesse ritornare a livelli piuttosto preoccupanti, ai quali purtroppo abbiamo dovuto assistere in tempi anche non troppo lontani, lei insieme a tutti noi, esatto, ne risentiranno in maniera proporzionale. Senta, il BTP a 30 anni, io mi chiedo, generalmente è un tipo, diciamo, di strumento di investimento adatto a chi? Per quello che io ne so, generalmente è sottoscritto magari da investitori istituzionali, da fondi pensione, da assicurazioni, appunto proprio perché hanno una logica di investimento per gli strumenti che gestiscono di lunghissimo termine. Ha senso investire in un BTP per farci trading quotidiano, come fa l'ascoltatore? Sì, ha senso a patto che si verifichino almeno due condizioni. La prima è che ci sia una discreta volatilità, non mettiamo neanche in discussione la liquidità, perché comunque i nostri titoli di Stato, il segmento del MOT, è comunque piuttosto liquido, quindi almeno questo pericolo lo possiamo scongiurare o comunque dare per scongiurato in partenza. Vi deve essere però una certa volatilità, e non a caso uno strumento con una duration così elevata offre anche dal punto di vista del trading più o meno stretto la possibilità di essere lavorato con un'ottica di breve periodo. La seconda condizione è quella che chiaramente bisogna avere il minimo di competenze e conoscenze per poter effettuare questo tipo di operatività, che è decisamente aggressiva, per evitare quantomeno, insomma, di rimanere poi più o meno casualmente bloccati e pizzicati all'interno di un titolo con una scadenza così lunga, e quindi soggetta in maniera molto violenta a forti decurtazioni in conto capitale nel momento in cui, per qualunque strana ragione, dovessero i tassi schizzare al rialzo in breve tempo. Speriamo di no. Io che le devo dire, insomma, vorrei più pensare ad una condizione di tranquillità, anche se poi chiaramente tassi più alti ci rendono anche paradossalmente un po' più appetibili verso investitori molto scarsi. Altri. Mirko da Milano con un'altra domanda. Mirko, buongiorno. Buongiorno signora. Le volevo dire, mi sente? Sì, sì, certo. È perché ho un eco, insomma, di ritorno. Mi dispiace. Le volevo dire, l'imminente crisi finanziaria, che secondo me potrebbe veramente esserci, insomma, ci sono parecchi segnali, ma sui titoli di Stato potrebbe portare, voglio dire, una decorrelazione, cioè nel senso che, come vediamo adesso, l'indice, lo spread è basso, ma non coincide poi con i valori dei titoli bancari, perché dovrebbero essere decisamente sopravvalutati in teoria, perché sono valori dello spread verso il 2003-2004 avevamo questi tipi di... I valori bancari intende delle società quotate in borsa? Sì, sì. Vedo che c'è stata una decorrelazione, quindi, e viene interpretato come un bene rifugio. Però quello che volevo dire, la crisi finanziaria e quindi la discesa degli investitori stranieri dai titoli di Stato italiani, come vediamo la tendenza è già in atto, quindi se vediamo portarli a zero, voglio dire, gli investitori stranieri, quindi tutti i titoli di Stato italiani in mano agli italiani, non è che alla fine ti dicono questo è il tuo debito? Questo è il tuo, mi scusi Mirko? Non è che alla fine, quando nel momento in cui ci sono per assurdo il 100% dei titoli di Stato italiani, situazione giapponese, ti possono dire con l'imminente crisi finanziaria questo è stato il tuo debito, quindi non è una perdita, questo era già il tuo debito. Allora, eccoci ritrovati in diretta ancora. Buongiorno da Deborah Rosciani per l'ultima parte di Salvadanaio, per affrontare un po' le questioni che vi state ponendo alla luce del movimento che si è registrato di nuovo negli ultimi giorni sul fronte spread, differenziale fra Italia e Germania sul titolo decennale. Stiamo commentando le aste di questa mattina, stiamo commentando anche così la propensione degli risparmiatori italiani nei confronti dei titoli del debito del nostro paese. Era stata un po' articolata la riflessione del nostro Mirko da Milano, che era arrivato però a dire: ma se ci ricomprassimo tutti quanti noi i titoli di Stato appunto italiani, perché gli investitori in questo fuggi-fuggi naturalmente non ci darebbero altra alternativa, ma lei la vede possibile, Massimo Gotta, una situazione potenziale giapponese? Allora, io premetto che ho capito molto poco di quello, sì, che l'ascoltatore ha anche detto, noi, la però vabbè, era disturbata. Quindi, prendiamo quello che abbiamo capito. Se mi dispiace, mi fa un attimo il riassunto della domanda, forse riesco non a... l'abbiamo nel senso che lui dice, ma se alla fine arrivassimo tutti gli italiani ad avere i titoli del debito pubblico appunto italiano, se fossimo noi gli unici sottoscrittori di titoli di titoli di Stato appunto italiani, non è che appunto... Non ho capito se voleva arrivare a dirci se ci abbonasse, se ci potrebbero appunto abbonare questo, non lo so. Comunque, la situazione giapponese, lei la vede possibile? No, francamente no, in questo momento non la vedo possibile. Il fatto che tutto il debito del nostro Stato sia detenuto a livello di privati o a livello di banche soltanto da investitori italiani, la vedo anche una cosa abbastanza difficile, a parte il fatto che se ciò dovesse avvenire ci sarebbe da preoccuparsi seriamente per tutta un'altra serie, sì, di questioni che forse in questo momento non abbiamo il tempo di indagare. No, no, ma lasciamo perdere questo, anche perché diciamo questa situazione non la volevamo neanche commentare quando lo spread era a 570 punti nel periodo in cui appunto ci fu il passaggio di consegne di governo tra Berlusconi e Monti, per cui non vedo perché la dobbiamo evocare adesso che siamo, sì, a 250. Certo, e quindi no, devo dire la verità, vedo la soluzione giapponese per fortuna al momento ancora molto distante da noi, anche perché poi teniamo conto del fatto che nel bene o nel male noi comunque siamo all'interno di un'unione monetaria e che si spera anche diventi più politica di quanto si non sia stata in tutti questi anni, e di conseguenza comunque non possiamo ragionare come stato singolo, e comunque al di là di quelle che possono essere le vicende che coinvolgono il nostro Stato a livello di indicatori macroeconomici, a livello di stabilità del governo, a livello di credibilità all'estero dal punto di vista di chi deve venirci ad investire, comunque sia un minimo di opportunità anche per degli investitori esteri vengono sempre a presentarsi, certo, sia che si parli di debito, di reddito fisso, sia che si parli di azionario, quindi francamente la vedo una cosa un pochino tirata per i capelli. Allora, volevo invece ritornare a Roberta Rossi per riprendere una considerazione che ha fatto all'inizio del programma, quando ci raccontava che tutto sommato non ha particolarmente consigliato ai propri clienti di investire nel appunto bond governativo italiano, suggerendo di impostare la diversificazione dei portafogli in maniera diversa e puntando anche, ci ha detto Roberta Rossi, su obbligazioni bancarie che in certo caso sicuramente offrono dei rendimenti interessanti, qualche prodotto è strutturato e un po' complesso, sicuramente adatto a portafogli importanti, non magari a piccoli portafogli, però diciamo che negli ultimi anni invece molti anche suoi colleghi consulenti ci hanno insegnato che forse dall'obbligazione, proprio per la sua condizione un po' complicata, è meglio fuggire. Mi ha stupito questo suo diciamo suggerimento che dà ai suoi clienti. Sì, non ho parlato di obbligazioni legate, obbligazioni derivate legate a indici, all'apprezzamento di indici diciamo azionari. Quindi ha parlato di obbligazione bancaria pura. Ho parlato di obbligazioni, di titoli obbligazionari non banalmente a tasso fisso, obbligazioni per esempio che rimborsano quote del capitale ogni anno, i cosiddetti amortizing, in cui il calcolo del rendimento a scadenza non è banale come quello di un titolo a tasso fisso, quindi andare a calcolare rendimenti di questi titoli ai prezzi attuali per vedere raffrontati con altre emissioni se ci possono essere dei rendimenti, parliamo sempre di rendimenti potenzialmente maggiori dello 0,5-0,7%, cioè nel panorama obbligazionario non abbiamo mai dei differenziali di rendimento elevatissimi tra obbligazioni con gli stessi rischi. È anche per quello che noi cerchiamo di insistere con i nostri clienti di inserire anche quote rilevanti di azionari in portafoglio. Rilevanti quante? Su che mercati? Adesso per esempio lei a Borsa Italiana la spinge? La Borsa Italiana sì, è da diversi mesi che noi siamo molto investiti sia sulla Borsa Italiana che sulle borse europee per laddove diciamo i clienti ci hanno richiesto di investire su questi mercati, abbiamo cavalcato molti temi di investimento, per esempio tutti pensano alle banche, invece da maggio dell'anno scorso diciamo tutto il tema del risparmio gestito, titoli come Azimut, Banca Generali o banche anomale come Banca IFIS, e anche qui torniamo al conto deposito, di fatto che è il loro principale strumento di raccolta, sono state delle realtà molto interessanti su cui puntare. Forse noi abbiamo una capacità storica di fare un buon stock picking sul mercato italiano, abbiamo diciamo colto questi titoli che non sono normalmente quelli di cui si parla tutti i giorni sui giornali, ecco. Certo, allora volevo ritornare, tra l'altro il tempo a nostra disposizione sta scadendo, Gianmarco mi dice che ora chiudiamo perché c'è, ecco qua, 55:30, quindi ce ne mancano poco. Un'ultima riflessione la faccio con Massimo Gotta, esperto del reddito fisso per G&D Investimenti. Questa mattina il Tesoro ha collocato anche un CCT indicizzato all'inflazione dell'Eurozona. Perché volevo un commento su questo strumento? Perché siamo proprio ossessionati noi da BOT e dal BTP, parliamo un po' meno frequentemente degli altri strumenti appunto obbligazionari, che tra l'altro generalmente, come dire, danno anche al sottoscrittore potenzialmente la capacità, la possibilità di raggiungere il principale obiettivo di ogni portafoglio investito, quello di conservarsi e di proteggersi dall'inflazione. Perché sono un po' meno gettonati secondo lei questi strumenti, oppure è una mia percezione appunto non corrispondente alla realtà? No, non è una percezione che non corrisponde alla realtà. Allora, riflettiamo su due aspetti. Il primo dell'appetibilità di questi titoli, e cioè quello che profondamente è cambiato rispetto ai CCT vecchia maniera, quindi quelli che siamo stati abituati a conoscere, con i quali siamo cresciuti, è il parametro di indicizzazione. Oggi il CCT viene indicizzato all'Euribor 6 mesi, che storicamente è più basso, è sempre stato più basso e continua ad essere più basso di quello che era il vecchio tipo di indicizzazione dei CCT, cioè le aste dei nostri titoli BOT, quindi della liquidità. Quindi già questo rende meno appetibile un investimento, perché fermo restando gli altri rischi potenziali di un investimento obbligazionario, quindi il credit risk, parlando di rischio emittente, siamo sempre sul rischio dell'Italia, e unitamente al fatto che comunque sia il tasso variabile, come in teoria dovrebbe essere, dovrebbe quantomeno contenere in virtù di un'indicizzazione il prezzo a prescindere da quello che i tassi vanno a fare, rende comunque lo strumento meno appetibile, perché il parametro a cui la cedola viene indicizzata è di partenza inferiore rispetto a quello che era il precedente. Questa è stata, da parte del nostro governo, comunque da chi si occupa di studiare le emissioni obbligazionarie, Maria Cannata, il direttore generale del Tesoro, permette di finanziarsi comunque a tassi più convenienti. A parità di strumento. Bene, il fatto che questi strumenti coprano dall'inflazione, ahimè, purtroppo è vero in parte, nel senso che comunque sia il modo migliore, a mio modo di vedere, per coprirsi dall'inflazione è quella di acquistare dei titoli che abbiano perlomeno una componente più o meno grande che va ad indicizzarsi all'inflazione. Maggior ragione se possiamo puntare su strumenti che siano indicizzati all'inflazione italiana, che anche da questo punto di vista in media storica è leggermente più alta del resto europea. Grazie a Massimo Gotta, Roberta Rossi per essere stati con noi. Salvadanaio sta terminando, grazie a tutti, noi ci risentiamo domani, buona giornata.